Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro terzo, versi 131-315. Esule dalla Fenicia, Cadmo, marito di Armonia e quindi genero di Venere e Marte, ha fondato in Beozia una grande città. E Tebe è fatta, e a te, Cadmo, poteva sembrarti un bene l'esilio. Ti erano toccati per suoceri Venere e Marte, ed una moglie del genere a metter famiglia, e una serie di figlie e di figli, nonché testimoni d'amore i nipoti, già grandicelli anche loro. Ma un uomo è bene che aspetti l'ultimo giorno. Nessuno puoi dirlo felice prima che con gli estremi onori si sia congedato per sempre. In tanta prosperità, prima causa di pianto, ti è stato un nipote, Cadmo, e le corna strane che gli son cresciute in fronte, e voi, cagne, ubriache del sangue del vostro padrone. Ma a ben guardare a suo carico non trovi se non un dispetto della fortuna, non un delitto. È delitto sbagliare. C'era un monte imbevuto dal sangue d'ogni tipo di bestia feroce, e già il mezzogiorno accorciava le ombre, distando il sole dagli estremi dell'orizzonte esattamente lo stesso, quando il giovane della Beozia convoca pacatamente i suoi compagni di caccia, sbandati qua e là per anfratti. Ragazzi, le reti e le lame già grondano sangue di bestia. Sì, oggi è già andata benone. Domani, quando l'aurora ci renderà la sua luce sul carro color zafferano, riprenderemo il lavoro. Ora Febo è a metà fra i confini della terra e le sue vampe ora arroventano i campi. Basta per oggi, sciogliamo e ritiriamo le reti. I cacciatori ubbidiscono e così la caccia è sospesa. C'era una valle fitta di abeti e cipressi appuntiti. Si chiama Gargafia, sacra Diana vestita in corto, valle che in un recesso boschivo nasconde un grottino senza la minima traccia d'artificio. A fingere l'arte è il genio della natura, che dalla pomice viva e dal tufo leggero ha cavato un arco spontaneo. Mormora a destra una fonte trasparentissima d'acque che colmano un'ampia fessura fasciata da un argine d'erba. Qui, stanca di caccia, per solito viene la dea dei boschi a detergere in acqua sorgiva quel suo corpo di vergine. Entrata dentro la grotta, affida alla ninfa scudiera il suo giavellotto, la sua faretra e l'arco allentato. Sulle braccia di un'altra depone l'abito che si è tolto. Due le sfilano i sandali, mentre più esperta di tutte, Crocale, figlia di Ismeno, le raccoglie in un nodo i capelli sciolti sul collo, anche se i suoi non li pettina affatto. Attingono acqua di fonte con grandi anfore Nefele e Iale, Ranide, Psecade e Fiale, per versargliela addosso. E mentre stanno irrorando, come sempre, la figlia del titano, ecco il nipote di Cadmo che, avendo conclusa la giornata di caccia, si aggira alla cieca nella foresta sconosciuta e arriva alla grotta. Questo volevano i fati. Si è appena affacciato a quello sgocciolio d'acque che, nude così come sono, alla vista d'un maschio le ninfe si battono il petto, riempiono il bosco di gridolini strappati, si assiepano intorno a Diana nel tentativo di farle schermo dei corpi, ma molto più alta di loro la dea le sovrasta tutte di tutta la testa, il colore di cui vediamo macchiarsi le nuvole quando investite dal sole o farsi di porpora l'aurora, è quello il colore che affiora in viso a Diana, sorpresa senza vestiti. Sebbene presa in mezzo dalla ressa delle compagne, riesce a girarsi di fianco, voltando la faccia all'indietro. come vorrebbe aver le sue frecce a portata di mano. Prende quello che c'è, prende l'acqua, la butta in faccia all'uomo, gli inzuppa i capelli d'uno spruzzo vendicatore e, a presagio della sventura imminente, rincara così. Adesso raccontalo in giro di avermi vista con niente addosso. Se ci riesci, fallo pure. Senza altre minacce, assegna a quella testa grondante le corna d'un cervo longevo, gli allunga e dilata il collo e così gli appuntisce gli orecchi, gli cambia in piedi le mani, in lunghissime zampe le braccia e gli fascia il corpo d'un bel pelame pezzato e ci carica la paura. Il prode figlio di Autonoe scappa e scappando trasecola d'esser tanto veloce e quando vede specchiarsi nell'acqua il muso e le corna, povero me, sta per dire, ma non gli viene la voce. Bramisce, la voce è quella, è un rotolio di lacrime su quella faccia non sua, solo la mente è la stessa. Che fare? Rientrare a casa nel palazzo reale o nei boschi nascondersi? No, la vergogna impedisce quello, questo, la paura. Esita. I cani lo vedono, primi Melampo e Icnobate lo segnalano con i loro latrati di Cnosso Icnobate, naso fino, Melampo di razza spartana. Altri ne accorrono svelti, molto più svelti del vento, Panfago e Dorceo e Oribaso, cani d'Arcadia, il bravo Nebrofono e l'Alape insieme al torvo Terone, e Pterela, senza l'uguale per i piedi, Agre per le narici, e il ferocissimo Ileo che un cinghiale ha appena ferito, e Nape, figlia di un lupo, e Pemenide, un tempo guardiana di greggi, e con i suoi due cuccioli Arpia, e Ladone Sicionio nei suoi sottilissimi fianchi, e Dromade, Canace, Sticte, Tigri e Alce, e Leucone col suo pelo di neve, e Asbolo, nero di pelo, e Lacone, il più forte di tutti, e Aello, imbattibile in corsa, e Too, e Licisca, veloce con suo fratello Cipriota, e Arpalo, con quella macchia bianca in mezzo alla fronte nerissima, e Melaneo, e Lacne, irsuta di groppa, e i figli di padre cretese, però di madre spartana, Labro ed Agriodo, e di Lactore, dal lacerante guaito, e tanti altri che ometteremo. La muta bramosa di preda lo bracca per rupi e dirupi e pietraie non praticabili, dove l'accesso è difficile o dove l'accesso non c'è. E lui fugge proprio per dove tante volte li aveva seguiti. Il padrone fugge i suoi servi. Ah, come vorrebbe gridare: «Atteone, sono Atteone! Riconoscete il Signore!» Ma la parola gli manca, non si sentono che latrati. Melanchete è il primo ad aprirgli una larga piaga nel dorso, Terodamante il secondo. Oresitrofo azzanna una spalla. Partiti più tardi degli altri, li han preceduti, prendendo scorciatoie sui monti. Son loro a bloccare il padrone, mentre il resto del branco nella carne gli pianta i denti. Non c'è più spazio oramai per altre ferite. Lui geme e se non è voce d'uomo, non è verso che un cervo possa emettere e colma di rantoli quelle balze ben note. Piegati i ginocchi come chi voglia pregare, ruota giro giro gli occhi in silenzio, quasi fossero braccia. Ma ignari i compagni aizzano con le solite grida la muta rabbiosa, cercando con gli occhi Atteone, e come lui non li sentisse, urlano, urlano a chi urla più forte: Atteone! Al nome lui gira la testa, dispiaciuti che per pigrizia si stia perdendo quel bello spettacolo a lui dedicato. Lui vorrebbe non esserci, e c'è. Vedere l'accanimento dei propri cani vorrebbe, ma non vorrebbe patirlo. Lo assediano da ogni parte e, immergendogli in corpo le zanne, dilaniano il loro padrone. che egli travestito da cervo, ma non prima che mille ferite gli portassero via la vita, fu sazia l'ira, raccontano, di Diana, la dea confaretra. La storia si presta a giudizi opposti. C'è chi ritiene la dea più violenta del giusto, chi invece ne apprezza rigore e dignità di vergine, ognuno con buoni argomenti. Solo la moglie di Giove, più che pronunciarsi per l'una o per l'altra tesi, pensa a godersi il disastro piombato sulla casa di Agenore, estendendo all'intera famiglia l'odio per la sgualdrina di Tiro. Tanto più che ai motivi di rancore si è aggiunto che Semele adesso è incinta del grande Giove, e figurati se abbassa la voce. Ma cosa mi è servito alzar tante volte la voce? Grida. No, a questa ci penso io. Se mi merito di chiamarmi Giunone la Massima e di portare lo scettro tempestato di gemme, se sono regina e sorella e consorte di Giove, sorella è sicuro, questa la concio io. Pensavo si accontentasse d'una scappata, di un breve oltraggio al mio letto. Aspetta, ci mancava anche questa, un bambino con la pancia gonfia tradisce la magagna e dice a tutti che è stato il mio Giove a renderla madre, io madre pochissimo. Tanto conta sulla bellezza, gliela faccio pagare. Non sono più chi sono se non sarà proprio il suo Giove a travolgerla e affogarla nelle acque di Stige. Si alza dal trono e, nascoste in una nube rossastra, va a casa di Semele, dove non dissolve la nube se prima non si traveste da vecchia. Si imbianca le tempie, si crepa la pelle di rughe, assume la tremolante andatura d'una povera gobba e si assegna una vocetta senile identica a quella di Bero e di Epidauro, balia di Semele. E lì, dopo molta chiacchiera, capziosamente le cade il discorso sul nome di Giove e qui sospira. Speriamo sia proprio Giove, purtroppo più d'un sospetto. Sai quanti si infilano in letti illibati spacciandosi per celesti? Peraltro non basterebbe essere Giove, un pigno d'amore vero non te lo ha dato. Se è lui, pretendi che, come abbagliante, vada alla grande Giunone, abbagliante ti abbracci una volta indossate le insegne di tutta la sua maestà. Con questo discorso Giunone plagiava la candida figlia di Cadmo e lei chiede a Giove un regalo senza dir quale. E lui, scegli tu, le risponde, non hai da temere rifiuti, per stare tranquilla, guarda, te lo giuro, sulle correnti di Stige, il dio che mette paura pure agli dèi. Lieta dei propri guai e del proprio potere, vittima della compiacenza di lui, fa come ti vede Saturnia, quando voi vi incollate in amore, esattamente così. Vieni da me. Mentre parla, il dio vorrebbe tapparle la bocca, ma è già fuggita per l'aria, la voce sventata. Sospira. Non può revocare però la richiesta di lei, né il suo giuramento. Così, tristissimo, ascende nell'alto dei cieli e lassù, con un cenno del capo, aduna le nuvole ubbidienti e in più gli uragani e i venti tracciati di lampi e i tuoni. Aduna e i fulmini che non lasciano scampo, ma tenta per quanto possibile di contenere le forze. Non si arma per questa volta del fuoco con cui demolì Tifeo dalle 100 mani. È troppo brutale quel fuoco. I ciclopi fanno anche un tipo di fulmine un po' più leggero, di fiamma meno violenta, meno carico d'ira. Gli dèi lo chiamano fulmine di scorta. Lui prende quello ed entra da Agenore. Corpo mortale non tollera tanta bufera e incenerisce di quel regalo di nozze. Il bambino immaturo fragile, estratto appena dal grembo della mamma, è cucito, per chi ci crede, dentro una coscia paterna, perché vada a termine il tempo di gravidanza. Ino, sua zia, rapitolo in culla, gli presta le prime cure, per poi affidarlo alle ninfe del Monte Nisa, che lo nascondono dentro una grotta e lo crescono al latte.